versione 1.0.0.1732 e usatrice. Perseus può essere già fra quella che dicevo io? Sì, però attenzione a non commettere l'errore di considerare che avete apparati tipo Perseus e tipo altri, tipo il mio radio, che costano 600 euro. Se costano 600 euro, evidentemente c'è una piccola differenza con chi avete che costano qualcuna 9 euro, qualcuna 35 e così via. Perché quelli là sono dei veri SDR, cioè sono SDR puri, fatti per quello scopo, con filtri, vari circuiti demodulanti di un certo livello. Tant'è vero che SDR sono anche quasi tutte oramai le radio più sofisticate, tipo militari, eccetera, sono tutte SDR perché hanno ampi spazi anche di frequenza oramai. Però insomma è come prenderti un ciao rotto, con le ruote sgonfie, in termini di paragone, e dall'altra parte c'è una Ferrari testa rossa, insomma ci siamo capiti, no, la differenza. Asco, versione 1.0. Allora, SDR, cancelletto, V1, che sarebbe V versione, 1.0.0.1732. Se poi ci vuoi mettere trattino RTL, ma la trovi già così. Ecco, adesso vediamo. Ehi, ehi, Gianfra, sì, infatti anche ricordavo che c'erano dei veri e propri SDR, poi le chiavette che col programma dato qualcosa riuscivi a ricevere, però a differenza di prezzo c'è, ci sarà il perché. Perché quello che ti ho detto, che c'è una componentistica eccezionale, eccetera, eccetera, eccetera, quindi con filtri, insomma sono dei ricevitori, quello che dicevo io in radio addirittura lo usavano anche in ambasciate, messi in serie 10, 20 per intercettare tutte le frequenze possibili, immaginabili, un colpo solo. Capito, c'è l'ultimo che è uscito da Win Radio, era quello che c'era l'Excalibur, poi adesso c'è l'Excalibur Pro, e poi dietro questi due, che era il Perseus e Win Radio, ce ne sono tante altre che sono uscite fuori, però sempre con prezzi non indifferenti, ecco. È uscito anche uno della Icom, mi ricordo, che era SDR, però hanno fatto una porcheria, che chi l'ha comprato sono subito sbarazzato, proprio perché richiedono un'attenzione particolare, perché ovviamente devono lavorare in USB col computer e deve avere anche delle soppressioni di disturbo abbastanza elevate, tieni presente che qualcuno lo utilizza anche come ricevitore affiancato a un trasmettitore, quindi se non è più che buono dura poco. Poi ci sono quelli specializzati che sono sempre SDR, tipo quello AirNav per il radar aereo o altri tipi. Ce n'è uno che se ti interessa costa anche poco, una chiavetta verde da Amazon, credo che venga 35 euro appena, ma quella sì, quella funziona, ma è monofrequenza, proprio va solo sui 1000 e basta, per intercettare la rotta di tutti gli aerei che ti passano sopra. Natalì, trovato? Ehi. Sto caricando, quello dovrebbe avere tutti i plugin per decodificare varie robe, ma ci vuole molta esperienza per quello. Marco, hai fatto colazione? Aprendo propagazione, mi si sente parecchia gente sotto. Marco, cucù. tedeschi in FM. Natale ha scaricato, sì. Nulla, non ci sono riuscito. Nulla. Ma in che senso non ci sei riuscito? Non sei riuscito a scaricare il programma? A avviarlo, che cosa? A scaricarlo. Pensi che me ne vado da qui. Che ADS c'hai? Che ADSL c'hai? A manovella, via telefono, che cosa? La fibra. Sì, non riesce a scaricare, è un file così piccolo, cioè dovrebbe mettere meno di un minuto, se c'è la fibra. Ascolta, se quella che avete il DAB puoi provare con un altro programma, è veramente piccolo e funziona anche bene. Però ti occorre anche un'antenna per ricevere, poi c'è un po' recentemente, che è un programma per ascoltare la radio digitale, DAB, quindi quelle che sono su 200 MHz, che hanno tutte le autoradio dalle macchine, eccetera, eccetera. Se ti interessa si chiama Welle, devi fare welle.de, cioè whisky, ecco, lima, lima, e... che è un programma che serve, non c'ha bisogno di niente, se la chiavetta è compatibile parte immediatamente. Natali, ci sei ancora? Sì. Sì. Mi sono sbagliato, è welle.io, non punto de. La sto cercando anch'io così. Che serve per il DAB, se ti interessa. Chiuso tutti. C'è scritto well.io DAB, questo qui è. Sì, sì, quello lì. Vediamo un po', c'è anche il più, well è io. RTL, SDR, device, eccetera, eccetera. Lo apri e ti fa vedere un po' come funziona. E poi lo vediamo, è il download. Il download dov'è? Dov'è per Windows, ecco. Io for Windows e te lo scarichi. Hey. Oh Marco, ti abbiamo chiamato tante volte, che fine hai fatto? Dicevo, stai facendo colazione. Vedo un segnalino, no, mi erano tanto distanza. Io sono così vago, tipo fantasma, appaio, compaio, sparisco. Compaio o appaio? Viene il dubbio. Se compari è normale, se appai invece dà più la sensazione che sei un fantasma, ecco. Quello che senti sono tedeschi che stanno chiacchierando in FM. Ti mandano tanti saluti, hanno detto anche loro se hai già fatto colazione. Questa cosa del fuso orario mio sta diventando leggendaria, capito? 6 ore di differenza, praticamente East Coast americana. Ma chi è che fischia? No, sento che è un canale occupato. Magari sta tentando di entrare, avanti. Avanti la stazione che fischia, identificati. No, forse è propagazione. Ui ui. E quindi, Natalino, ci stai riuscendo a cavarne piedi? Adesso vediamo. Allora, domanda per Gianfranco. Io mi ricordo che anni fa, ma tipo 10, forse anche 15 anni fa, c'era un mezzo ricevitore ICOM che era una scatola nera, praticamente, da collegare al computer. Non penso fosse roba SDR, non esisteva all'epoca l'SDR. almeno credo, come lo intendiamo adesso. Era praticamente una scatola dell'Icon da collegare al computer, ma funzionava unicamente attaccato al computer, perché non aveva display, non aveva nulla. Te la ricordi? Non mi ricordo però la sigla. Sì, ma lo ricordo, ma... sì, forse, credo che funzionasse anche senza il computer, ma era un mezzo bidone, ripeto, perché era fatto in quella maniera, no? Quindi poi alla fine ne trovavo tanti che se ne stavano sbarazzando proprio perché selettività non aveva, voleva fare concorrenza al Perseus, al coso, ma prendeva scivoloni a nastro. E dubito però che fosse CDR, era una cosa più vecchia, forse anche 20 anni fa, e non aveva nulla, non aveva controlli, era proprio una scatola con ingressi tipo, vabbè, per PC, ingressi antenna, e vado a trovare, tipo in ICOM 1005, ricordo una sigla del genere, vabbè, non fa niente. Sì, l'ICOM, l'ICOM, sì, è lui, il 1005, poi vendeva un'antennina anche oscena, da 0, quello da 001 a 3300 in tutti i modi. Anno di introduzione 2005, ideazione Giappone. Trovato, qua si vede la scatola nera che ricordavo, con un interruttore e basta, poi a fianco c'è un frontalino che forse funzionava unito, solo che mi ricordo questo fatto che era dipendente da PC, proprio funzionava, credo, unicamente con l'interfaccia PC, altrimenti no. Pure questo frontalino non mi è familiare, all'epoca io non me lo ricordo, la scatola nera sì invece, e ogni tanto, infatti che c'è ogni flop. Ogni tanto anche loro qualche cantonata la prendono, e poi per andare a 3300 non ci fai così, no? Poi se non metti gli amplificatori non c'è sotto qualcosa di serio. Natali, a che punto siamo? Adesso mi sta dicendo che non vuole piazzarlo perché Windows Defender dice che potrebbe essere un rischio. Ma no, perché conosce il... non lo conosce, sono programmi fatti da... senza certificato, perché non è che uno può fare un programma, ci mette per forza il certificato e quindi lo classifica come pericoloso, ma ti assicuro che non è pericoloso, perché sono di uso gratuito, quindi dille, lo sa installare lo stesso, sì, chiedi ulteriori informazioni e sotto installa comunque. E gliel'ho detto, mi sei tu. Successivo, accetto la licenza, la sto installando. Poi c'è un discorso anche del USB, se ti riconosce questa pennina in qualche modo, perché se te la mette come generica o addirittura l'ho installata ma c'è un difetto, te ne accorgi solo andando sulle proprietà. Poi ti dico come fare, purtroppo queste pennine sono un po' toste, perché devono avere il loro drive, se no neanche a ruccio. Capito Marco, così è. E io già me ne compro un'altra, il prossimo mese me la piglio nuova, dai, se non riesco a farla funzionare questa me la piglio nuova e ci saranno anche i drive, no? Ma no, di norma no, perché se sono RTL SDR hanno sempre lo stesso drive, che però si installa con un programma ad hoc che si chiama Z-League, che è molto semplice, te la rileva e ti installa il drive, perché se dà retta a Windows ti mette quello che vuole lui, che non c'entra niente, prende fischi per fiaschi e installa, magari te lo vede come archivio, come chissà cosa diavolo ci mette. Quindi ci vuole per forza quel programmino che è piccolissimo, in un attimo te lo installa. No, mi meraviglia che non sei riuscito a togliere quello che ti ha detto SDR Sharp con la versione che è completa con tutti i plugin per le decodifiche, tutto lì. Marco, allora, cosa ci dici? Comunque sì, o è quello o è simile, mi pare di capire, dipende dalle versioni, può venire, cioè demand può venire, come dicono, quel ricevitore c'era con o senza frontalino, c'è un asterisco, dice dipende dalle versioni un po'. Io ricordavo solo la scatola, infatti ho detto, mi era venuta la malsana idea tanti anni fa di quasi prenderlo, sai, la novità del PC. E poi ho detto, e le antenne? Cosa ci metto per ricevere? Quell'antennino ridicolo, ma per carità, in HF poi mi... Ma dipende da tanti fattori, dipende anche dalle studi che sono presenti, perché tutto sta anche sul computer che usi, è presente che molto lavoro lo fa il processore, e quindi se non c'è processore, non c'è memoria, non c'è un computer, abbastanza, non dico performante a livello tipo per giocare, ma perlomeno un computer decente, insomma, se non è così non posso passare, ecco. E sono qua, sto vedendo, sì. Qua me ne compare addirittura un'altra. Sì, che poi l'accesso è senza il frontalino, però sempre quello, comunque PC R1005 senza il frontalino, perché il frontalino ti permetteva già di usarla in macchina, mi pare, vabbè, li faceva da display, da interfaccia, da comandi, tutto, e poca roba che ho visto per poco tempo, dai. Sì, ti danno un antennino che sarà il solito VEU, antennino veicolare, e basta. Va bene, fra poco chiudo, che sono cotto dal caldo, dal cotto a puntino. Ma perché in spiaggia? No, non sono riuscito a fare la spesa, vabbè, la macchina era ovviamente in pieno sole, quindi prima di raffreddarsi è una parola grossa. Poi sempre caldo, poi ho mangiato, mi ha messo proprio le caldane a tutto spiano. Non è solo il calore che non è eccessivo in casa, è il fattore ormonale c'è dietro. Noi si sta trasformando in una bella ragazza, no? Magari, ma avrei troppo caldo, preferisco il baracchino. Magari secondo ti trovi qualche riccone, ti fai pure i soldi. Oh, se ve ne racconto una, vecchi amici potremmo definirli, conoscenze di vecchia data che non vedevo da tanto, ma tanto tempo, e quando ho sentito che c'avevo il baracchino, quello il baracchino c'hai, insomma, praticamente noi CB e comunque tutti quelli che usano radio così per hobby ci ha definiti degli esauriti con delle ridicole antenne sulle macchine che fanno ridere solo a vederle, capito? Ecco perché le consideravo, diciamo, conoscenze e non amicizie. Cioè, queste uscite così, perché quei rincoglioniti con delle chat dei social, quei cerebrolesi delle social, dei social, e lui è così. E poi bisogna vedere se conosce il certificato, se conosce il certificato. Beh, cosa è successo? Ogni tanto si incanta al microfono. Se conosce il significato di baracchino, di radio, di quelle cose lì, queste non conoscono realtà non lo sanno, non sanno neanche i principi generali di funzionamento, sanno solo poggiare le ditina sui prati e basta, altro non sanno. Quindi cosa vanno a cantare, a cantare, a tammazzare più che altro. Sì, no, già l'aveva conosciuto tramite me, però la pensava un po' così. Persino quando c'era solo il baracchino non gli interessava. No, ma questa persona non aveva 15 anni, forse 20, è di quelli che è entrato nel modo di pensare degli haters dei social, YouTube, che cioè detesta tutto ciò che non piace a lui e anche quelli che non la pensano come lui, capito? Perciò ho detto il cerebro lesi dei social network, perché odiare a priori tutto ciò che non ci riguarda, tutto ciò che non piace a noi. Bella, molto molto intelligenti, molto larghe vedute, interessante. Vabbè, gli ho accennato che comunque questa cosa dei social, ho detto no, che ho detto vabbè, io sono rincoglionito delle antenne e quasi il cerebro leso dei social. Quello con un modo di pensare, però che non rispetta gli altri, eccetera, eccetera, non si rende conto che l'anticamera dal razzismo, se non il vero e proprio razzismo, perché fare le cose, avere la libertà è un patrimonio di tutti che non si può ignorare, ecco. Tra l'altro un detto di un grande presidente, Sandro Pertini, diceva: io posso essere anche contro le tue opinioni, però sono disposto a dare la vita affinché tu possa esprimerle liberamente, capito? Quindi questa gente non c'ha valori. Infatti, ecco perché era una vecchia conoscenza che non frequentavo da 15 anni, se non di più, cioè le ho lasciate andare. Hai detto bene, la frase è più che azzeccata. C'è una ristrettezza mentale, cioè questo era il modo di comunicare quando non c'erano i cellulari, poi sono andati i cellulari, poi i social, cioè lui fa la stessa cosa che facciamo noi, trascorre le ore della giornata per parlare, per divertirsi, chiacchierare, parlare di qualche argomento. Vabbè che lì già lo sai, è un po' come per gli smartphone, ci sono gli iPhoneisti che odiano a priori Android, quindi Android cacca, iPhone eccetera, poi c'è il contrario, ci sono gli Androidisti che dicono iPhone cacca, Android è migliore, haters, haters o contro haters, capito? Ma mai come in questo periodo mi appunto ho visto prese di posizione così estreme su tutto, politica, religione, ideologie, vabbè, per quante ne possano avere. Gianfra, Natalia, che punto sei? E l'ho installata, però mi dice nessuna stazione, c'è questo segnale, c'è e poi un altoparlante. Sì, quella lì purtroppo necessita di un'antenna, siccome le frequenze sono intorno a 200 MHz, quindi l'ideale sarebbe collegarlo all'antenna TV, diciamo, perlomeno per farti la scansione e renderti conto se quella chiave funziona. Tutto lì. Capito, forse il programma, come hai visto, è semplice, non ti chiede niente, puoi fare una scansione, lui te le trova e te le suona, tutto lì. E mi meraviglia invece che non sei riuscito a scaricare quello lì che ti ho detto, dell'SDR Plus completo. Niente, anche perché al suo interno contiene quel programma che ho detto, che è Zelig, che ti permette di installare i drive sui. E ho capito, c'ho un'antenna TV di quelle interne, gli ho messo. Non ce la fa? No, mi sa tanto che gli faccio il collegamento alla parabola che c'ho fuori, o all'antenna proprio TV. No, la parabola non ti serve a niente, figurati se va bene, deve operare su quelle gamme 200, 180, 200 mega, per avere quella ricezione lì dal DAB. Sono tutte lì, o meglio tutte lì, c'è un solo slot purtroppo, quindi ci vuole ricezione ancora. Devi... hai mai fatto la scansione? Perché se non fa la scansione da solo non se le trova. La scansione si fa sul tasto, te lo dico subito, anzi dimmi se l'hai già trovato, se te l'ha fatta la scansione. Cerco 5A 1%, canali trovati 0. Allora, guarda, lo slot dove ci sono, credo che sia il 12, il 12, e comunque la scansione, se c'è qualcosa la trovi facendo, dove c'è al, in Affinity All Station, che è a destra in alto, e poi in quei puntini, sono tre puntini, leggermente quasi al centro, Star Station Scan, è quello che fa, ti trovo le stazioni, ecco. E sono andato lì proprio, l'ho mandata avanti la scansione, però FM all'1% è... Beh sì, ci tarda un po' perché si deve fare tutti i slot. Comunque quello dove ci sono le radio è il 12A, quindi tecnicamente lo potresti fare anche manualmente. Solo ripeto, ancora non sono riuscito a capire dove cacchio hanno messo il ripetitore, perché se fosse a Monte Oro dovrebbe essere fondo scala, mentre da me non lo è. Quindi chissà dove l'hanno messo. Marco, tu non ne sai niente, no, di dove hanno messo il ripetitore DAB a Sassari? Nulla, buio totale. E finché non diventerà una tecnologia più definitiva, cioè più definitiva, definitiva, non prenderò nemmeno radioline né niente. Tu, io avevo una chiavetta della Terra Tecno, TV e radio, non so se può essere utile, cosa faccia, cosa non faccia, se si può adattare a quel programma. E tanto è tutta roba che non andava bene sul mio XP. Richiedeva più risorse, non funzionava nemmeno come TV me, perché XP, il portatile, non c'aveva RAM, non c'aveva processore, eccetera. Andava bene per Windows 7, però i driver non so se si trovino ancora, se si siano mai trovati i driver, boh. Se non Atari potevi provare quella. Ah no, ha detto una fesseria, ma quella è una chiavetta di VBT, scusa, DAB. SDR, ma vabbè, al prossimo mese me la compro una, cazzo, non li troverò i driver nella chiavetta nuova. No, non li trovi, neanche su quelle chiavette un po' più care, perché ci sono in rete. Guarda Natalie, fa una cosa, giusto per farti questa verifica, perché magari poi in realtà tu non stai ricevendo niente, ricevi solo qualcosa di strano, ma non stai ricevendo quello che devi ricevere. Adesso scaricati questo programma che ti dico, così vediamo un po' se riesci, com'era, Zelig. Aspetta, te lo cerco. Natalia, ma a te interessava per ricevere cosa? Ma tipo le HF, le radio solo DAB, la 27, la V, la U, per cosa? scusata lì, Zadig, non Zelig, sto confondendo, Z-A-D-I-G, Zadig, è il programma che devi scaricare per l'installazione dei drive, te trova lui, fa tutto lui, quindi è abbastanza semplice. Io ho fissato un Zelig, quindi abbiamo detto che era Zadig, vediamo un po' se lo trovo subito, Zadig, mamma mia, Zadig, USB, drive, installation, eccetera. Sito zadig.acheo.ie. Sì, vedi, c'è la foto del programma, poi ti scarichi il download per Windows, c'è la 2.5, Windows 7 superiori, quindi anche 10, e dovresti essere a cavallo, più o meno. Quando mi installi dimmelo, così ti dico come fare a trovare, perché devi fare opzioni, liste, e lui va a cercare la chiavetta. Dai, io vi lascio fare, mi attacco alla televisione, ciao Gianfranco, e Natalino anche, dai. Poi, se dovesse essere compatibile questa chiavetta a terra, te che gliela do. Da me non ha mai funzionato, causa risorse insufficienti. Non so se funzionino e cosa riescano a fare. Tanto nella mondezza va a finire, quindi tentar non nuoce. Infatti, mi l'ho installato Zadig. Oh, perfetto. Aprilo. E come da immagine, adesso guarda, anzi aspetta che la finisca anch'io, perché così ti posso indirizzare a colpo sicuro. Eccolo qua. Allora, opzioni, lista dei device, quindi dove c'è opzioni, la prima voce, la clicchi e vediamo se la clicco io, e ti dovrebbe, mi dici cosa appare, dove c'è, alla prima riga dove c'è scritto drive, con la a sinistra. Create new device, load present device. No, aspetta, cosa hai fatto tu? Devi andare su opzioni, ho detto, opzione, collega in mezzo la voce all'avvio del programma. Cliccarci su opzioni e vedi lista, list all device. E sì. Ciò, su opzioni. Mi hai sopratopolato. Ho detto che c'ho quello. Option, list all device, tutti i device. Perfetto, adesso c'è un, siccome non ha detto che ti dia quello che interessa a te, c'è tutto l'elenco a tendina, quindi come vedi il primo che ti dice USB eccetera eccetera, lo puoi aprire e ti dà varie interfacce, che può essere quella audio, quella della tastiera, eccetera. Dimmele un po' tutte, ma non penso che ne hai molte, tanto. Ovviamente collega la chiavetta all'USB. È collegato, c'è scritto MID USB, IAJC, OE24, Q1, WinCD, c'è una crocetta, poi c'è Win USB e spiccioli Reply Device Driver, voglio dire. Aspetta, così ti dico subito con la chiavetta compatibile, perché mi sa che quella, se non c'è, non funziona, non è compatibile. Aspetta, vediamo un po' cosa esce fuori. Allora, ti dovrebbe, se è una rea, se è RTL SDR ad esempio, come le mie, ti esce questo drive insomma di questa interfaccia che si chiama bulk-in-interface. Ok? C'è? No, ovviamente. No, non c'è bulk, questo che sta dicendo tu. C'è scritto USB keyboard interface alla prima riga. Quella è la tastiera, non te ne frega niente. Quindi non ti sta trovando i driver che ti servono, in poche parole. Poi c'è, che ne so, PS, PS2, che sarebbe l'USB del mouse. E niente, se c'è solo questo è un cavolo tutt'uno. Quindi quella è una chiavetta che ha dei drive dedicati a lei e basta, che esclusivi, diciamo così. Aspetta, more information, c'è scritto Win USB IB USB, poi IB USB Win 32 IB USB K Win USB Microsoft. Quale Microsoft con la scheda mano non c'entrano niente, sono altre cose. Guarda, te ne accorgi subito qual è, perché se togli la chiavetta, se la togli, ti sparisce subito ovviamente dalla lista dei device quella lì, capito? Quindi sai la chiavetta almeno come si chiama. Non è sparito proprio nulla. Se non sparisce niente la chiavetta non viene rilevata da quel programma, e quel programma è quello che ti fa funzionare praticamente Sharp. Quindi ho paura che non sia compatibile, dai. Probabilmente c'ha un drive dedicato e niente, se no a quest'ora avrebbe rilevato, senza togliere, d'altronde sono operazioni abbastanza facili. Quindi Natale, guarda, se voi chiavette ce ne quante ne vuoi, anche su coso, su come si chiama, su Amazon, su eBay, e non costano neanche cari, siamo dell'ordine di una RTL SDR che è compatibile perfettamente intorno a costa 20 euro giù di lì. E vabbè, me ne compro una nuova col chip, com'è, 8232, una cosa del genere, non me lo ricordo com'è adesso. Ah. 8 e 20, adesso non è neanche io, ce l'ho presente. Però sappi che cosa devi fare, tu a cosa ti serve? Per ascoltare un po' tutto. Dato che non ho ricevitore, volevo usarmelo così. Un po' tutto è molto generico, perché praticamente già parlando in 27 la potresti disturbare non poco, però solo così come ascolto, diciamo, l'8808 sicuramente la ricevi, poi la banda aerea probabilmente la ricevi, se perlomeno Alghero dovrebbe arrivare, e anche gli aerei in decollo e in atterraggio. Poi in VHF note dolenti, dipende da quanto ti arriva il segnale, tutto lì. 27 è abbastanza disturbata perché si prende molto QRM in AM, poi soffrono parecchio. In HF onestamente non l'ho neanche provata perché sono molto molto scettico su quelle cose lì, così economiche. Lo potrei anche provare, ma con un antennino magari. Quindi non ti aspettare miracoli comunque, magari ascolti qualcosa, ti puoi ascoltare anche qualche QSO in VO o in UHF, però ripeto, non ti aspettare miracoli. Capito, mia Natalia? Yes. E considera poi se ti interessa più l'HF o il VHF? È HF, giustamente, il VHF è cosa? Non si intende nulla. Appunto. Niente, quindi potresti vedere un po' come si comporta. Adesso è già tardi, devo andare via, sennò siccome ho visto che c'è la mia vendita su eBay, si chiama RTL-SDR che c'ha le HF, c'ha due prese praticamente, l'antenna, una per UHF e una per HF, questa l'avevo presa qualche anno fa, e ho visto che funziona ancora, la rileva subito, non ti dà scocciature di drive, e dovrebbe andare... dovrebbe farti ascoltare qualche cosa, ecco, ripeto, senza fare grandi pretese, non ti aspettare di sentire di ex e quelle cosine anche a ruccio, sentirai quello che arriva a 9.40, ecco. Io ho capito. Però c'è anche il detto che si accontenta cosa. Mentre sono sicuro che avresti più soddisfazione in una radiolina che però costa cara. Di quelle, guarda, io qua ne vado avanti, c'è la Degen, l'ho usata tante volte anche in spiaggia, e riceve, perché ho fatto per l'HF, sente anche la 27 abbastanza bene, perché quella c'è un ricevitore, insomma, più, ed è la Degen, questa, DE 1103, non ho idea di quanto costi adesso. E quella azzurra, la RTL-SDR, quella azzurra è col delfino disegnato. Qual è la mia? No, no, quella che hai detto che c'è in vendita su eBay. No, il delfino non ne ha, c'ha un esatto rispetto disegnato, uno scatolotto nero, c'ha due prese d'antenna, costa credo 24 euro. Stavo vedendo qualcosina, poi tirano il solito antennino VU. Per sentire, vabbè, giusto radiomotori lì. Ne vedo tante, una grigia, una nera, insomma, alla fine. Siamo sempre. Sì, i prezzi sono quelli comunque, intorno 26, 24, 25. Sì. Esatto, guarda, ne sto guardando una adesso, però non è bene, costa appena 50 euro su Amazon Prime, quindi SSD, però non so se c'ha l'SSD questa, qua dicevo c'è anche l'SSD, praticamente è uguale alla mia. Vabbè, c'è la Texon, che però non riesco a vedere se c'ha le bande laterali, e le altre costano carucce. Eia. Sì, anche questa, ingresso UV e poi HF da una parte, 100 kHz, 1.7 GHz. Questa l'ho vista già su Roger K, l'avevano recensita, consigliata, non so. Ma deve ricevere, a Natale non serve, questa che c'ha l'SSB ad esempio, XH adatta, però costa 80 euro, questa c'ha l'SSB, Airband e quelle cose lì. Quindi insomma, deve andare bene. E mi compro la radiolina, dai, sono stufo di questo affare SDR. Mi compro la radiolina e faccio prima. Sì, poi il discorso è sempre quello, quanto vuoi spendere, da lì dipende. Questa fosse la mia. Non si vede. Trovata la tua, Gianfra, nera con l'analizzatore serigraffato, diciamo, no? Praticamente è identica a quella col delfino, cambia il colore e le serigrafie, e c'è scritto R ricevitore R820P. Sì, è quella che è compatibile subito con i programmi che abbiamo detto. Capito? Mi stavo cercando una che andasse bene per Natalino, però c'è questa che ha la bandana, ma non riesco a capire se ha la cosa lì, la banda laterale, perché per la carica ovviamente è necessaria, anche se c'è un BFO va più che bene, come c'è la mia. La mia non la trovo, vabbè, cioè non la fanno più, le cose buone non le fanno. Infatti. E a volte, guarda, eccetera, e non ci mettono la banda laterale. Cosa te ne fai di una radio multibanda e non c'è la banda laterale? Nulla. A me piaceva l'R5000, quello della Kindle, che sembrava un 440. Sì, ottimo, ce l'ho avuto, l'ho venduto poi. Adesso io qua ho il coso, il CR71, che c'è almeno era di colletta, 71 è, però non, probabilmente finché non muore di morte naturale non lo farò, perché c'è un ascolto che è proprio bellissimo, rilassante, non sembra neanche di ascoltare la banda laterale, è proprio perfetto. Ma costa. Beh, adesso di seconda mano non so quanto venga, tanto sono tutti di seconda mano, non so quanto venga, però diciamo intorno alle 250-400 euro, siamo, la range è quello, ecco. Eia, io ho dato un ECR7000, ragazzi, che ce l'ha Roberto adesso, quello che avevo io. Hai visto? Che poi col computer comunque con antenna discreta, anche un pezzo di filo buttato alla finestra, per dire, qualcosa combinavi, capito? Perché ci sono tante possibilità, però insomma, se non c'hai quelle cose lì è un cavolo tutt'uno. Come si chiama quella che hai tu, il 71? Sì, come CR71 è ottime condizioni, perfettamente funzionante, usato, 550 euro. Bellino. Bellino. Sì. Come piacciono a me, vabbè. Sempre così, sempre iniziamo, da. È un po' cara, i ricevitori sono tutti cari, però è un po' cara, secondo me. 550. Insomma, c'è già un HF e lo uso come ricevitore. E io non lo posso avere. E a me interessa anche il fatto molto di portarlo in macchina per via delle antenne, l'antenna veicolare con la multibanda Proxel. Riceveva così bene, persino con quella scatoletta Texun 660. Con REM è poco e niente. E poi vabbè, Natali, detto tra noi, mi ero anche stancato mi sentire i soliti QSO. Io alla fine mi riducevo a quelli in italiano, mi. Mi ce l'hai detto. 400 euro questo lo voglio. Sì, sì, ricevitori HF, diciamo, buoni, ce n'erano anche un po' mezzi sola, se li fanno pagare abbastanza. No, nonostante l'età, Questo qui è usato pure, capito? Sì, sì, vabbè, io ne ho trovato uno, il primo che ho beccato su eBay, 550 euro. Dice, perfettamente funzionante. È che in macchina è un barragione, gli devo mettere la cintura di sicurezza. Lo devo mettere sul sedile, dove metto. No, no, va bene. Ho in macchina lo so bene. Roba peraltro già fatta, Natalì, con la cintura di sicurezza, in modo che non cascasse. Avevo l'857 io nel cofano, nel frontalino davanti, una bomba era, le mani mi dovevo tagliare. Avevo trovato un video che adesso ovviamente non trovo più, forse l'ho cancellato. E ti... Vabbè, non si dice niente in radio, dai. Chissù, a seconda mano, 3,99. Capito. Eia. Eia. Comunque, Natali, VR, a te piaceva il VR5000, quello un po'... base ma compatto, piccolino, però credo che non fosse comunque nemmeno lontanamente paragonabile a roba tipo il CR71. Gianfranco mi è sembrato di capire che ce l'avesse, no, l'ICR 5000, e confermi? Cioè mi sembrava una specie di, cioè la versione poco più grande del VR500, quello portatile, quello palmare proprio. No, grande quanto è un 440, è della Kimbus, R5000 si chiama, e praticamente era grande quanto è un 440, e sembrava un 440, solo che riceveva solo. Sì, capito, capito, quello piaceva anche a me, piaceva anche a me per i prezzi, Natalie. Io l'avevo cercato già 10 anni fa, forse anche mai i prezzi, e poi conta che una cosa vecchia sempre di 30 anni, e quindi, boh, ascolta, ho lasciato perdere tutto, pazienza, pazienza. No, il quesito per Gianfranco, tu avevi lo Iesu 5000, no Gianfranco, ho sbagliato io. No, ce l'aveva un mio amico, ma era un bidone di proporzioni galattiche di 5000, non riceveva una mazza, sordo, ma non sordo di più, proprio sordo e cieco mi sa. E poi non parliamo delle frequenze VHF, cioè era al limite dell'inutilizzabile da una parte all'altra, comunque era un bidone, proprio niente a che vedere con gli... Ah, e allora era, come dicevo io, la versione, io ho avuto il VR500, che era 01.003 MFMSB, però purtroppo questi a sintonia continua, certe bordate dalle stazioni FM, che veniva male a dirlo, se l'attaccavi a una discone non ne parliamo. C'era un periodo che avevo dovuto mettere un filtro per attenuare la banda FM. Poi in HF, in banda laterale, sì, ricevevi, magari attenuando riuscivi a sentire le comunicazioni, perché se non attenuavi entrava di tutto, radio AM, sì, un bordello. Conta che era palmare, proprio era, stava nel palmo della mano. Eppure, invece già gli, almeno per la VHF FM e UHF in FM, erano già migliori gli Uniden, se quelli a salti, no? 66-88, tipo 137-174, quelli erano già più resistenti alle bordate delle radio FM, meno, come si chiama? Meno segnali fantasma dall'oscillatore interno, migliore in tutto, per quanto economici è gli Uniden, tipo il 69, no? Solo per l'FM però, per la, ripeto, VU, più che altro per ascoltare gli animatori. Copiato? Sì. C'è poca, sto controllando se c'era qualcosa da ascoltare, c'è poca, c'è molto USB nelle fre... Meglia, Natale, io alla fine sai cosa ho fatto? Mi sono arreso, ogni tanto mi ascolto Roma 4, che mi pare abbia tipo 80 metri, 40, 20, 10 e 11 metri, senti anche il baracchino, forse anche VHF, VHF o una delle due. Cioè la K la senti, certo l'antenna è a Roma, però bene o male senti Italia, Europa e anche oltre, diciamo. Senza stare a mettere chiavette, no, perché mi viene già pensando ai driver e a Windows 10 mi viene già la febbre, la meningite mi viene, ce l'ho a pensarci. Configurare, fare, non ne ho più voglia proprio. Io non riesco a usarlo quella roba, non riesco a spostarmi un caso. Infatti al computer sto rinunciando. No, Natalie, dai. C'è ampia possibilità anche, come ha detto Marco, è abbastanza semplice. Ti applica un pochino, c'è anche satelliti, adesso c'era un sito, Roberto, quel sito lì, vadi lì e c'è tutte le stazioni SDI, HF, VHF satellitari pure. E io ci sono andato a vedere lì, a curiosare, su Roma 2 e Roma 4. E c'è anche quello sardo, molto bello. L'hai visto quello di Oristano? Oristano, Serpini, non ricordo. No, non l'ho visto quello. E funziona molto bene. Dato che c'è anche la fibra ottica, portiamo scherzo. Io vado sui 10 mega quando mi fa bene, però funziona lo stesso. Va bene, adesso me ne vado a vedermi un po' di TV, dai, ci sentiamo alle prossime. Salutoni a tutti, QRT per me. Ok, va bene Natalia, dai. E riparliamo con calma. Buona TV e buona serata. Anch'io oggi ho fatto tardi alle 21:30. Ma riprendi Marco. Eia, Natalia, dai, ci sentiamo. Me. Vabbè, aspetta, già rompe un po' le scatole. Vabbè, scusa un attimo. Sì, ho fatto un'attività nuova. Sì, già è carino ricevere con questi online, non devi comprare nulla. Certo, l'antenna è lì, ma di Oristano, Gianfranco, non ha tutte le bande HF, o sbaglio? Beh no, devi andare sul suo sito di s0grb.it, credo che lì ci sia molta più roba. Qua diciamo è solo la banda del satellite, quello là lanciato dall'arabo, quindi va bene così. Eia, comunque compare in websdr.org sul sito, vabbè, chiamiamolo ufficiale, mi pare di averne visto uno sardo, se non me lo ripeti che lo cerco, aspetta, dai, direttamente. Yes, sì, c'è, S0GRB, Genova, Roma, Bologna, satellite, ricezione satellite Q0100, direttamente su... 10.492 mega. Aspetta, cosa c'è lì? Lì ci sono andato adesso. 10.000 megahertz. Boh. 10 giga. Sei nitido, eh? No, questo non l'avevo visto, non ci avevo badato, stavo guardando sempre, vabbè, ho provato quello di Milazzo, quello Roma 1, forse Roma 2, bah, scusa, Roma 4, Roma 2, quelli italiani diciamo. Vabbè, adesso orecchierò, dai, vabbè, più tardi, per adesso mi attacco alla TV. Ciao Gianfra, buona serata, buon tutto. E alle prossime, ok? Ciao a tutti, ciao. Ok Marco, alle prossime, buona serata. Ci sentiamo. Ciao ciao. Canale 10, se c'è qualcuno. Canale 10, c'è qualcuno? 27.085.